eccoci al secondo risveglio. Augurandovi una serena giornata, vi introduco i due argomenti di questa nuova puntata. Come accennato la volta scorsa, parleremo della numerologia nel Viet Tai Chi e a seguire inizieremo a parlare della legge dei cinque elementi, che è alla base della medicina orientale. I numeri del Viet Tai Chi. 108 fiori di loto è troppo per un vaso da tavola, ma non abbastanza per un grande lago. Perché il numero 108? Lo vedremo più avanti. Sul fondo di un lago abbiamo seminato un seme di loto. Questa pianta magnifica di cui il fiore è simbolo, per la sua bellezza raffinata, della purezza e dell'elevazione dello spirito. Ogni notte la pianta si è duplicata e siccome il lago è grande ci sono voluti 20 anni perché ad oggi solo un quarto del lago sia coperto di fiori. Pensate di avere sufficientemente pazienza e tempo per ammirare il lago completamente ricoperto dai fiori? Infatti è soltanto tra 2 notti e non tra 60 anni che il lago sarà ricoperto di meravigliosi fiori di loto. La stessa cosa per la ricerca della via. Sono molti coloro che abbandonano solo un attimo prima di ottenerla. Seguire l'ordine naturale è la via della saggezza, è il cammino più corto verso progressi autentici. Il numero 9 rappresenta la pienezza, un limite da rispettare, essendo tutti gli eccessi dannosi. Il numero 12 costituisce un circolo naturale. Ci sono 12 ore in una giornata per l'agopuntura e 12 mesi in un anno. Quindi il 108 è uguale a 12 per 9. Comprendere l'ordine naturale è facile. Vivere con e in armonia con il suo ambiente, questo richiede uno sforzo costante e un allenamento metodico. Il professore insegna all'università le conoscenze che figurano nel programma di studi. Il maestro non insegna, trasmette delle esperienze preziose che ha vissuto durante il cammino della propria via. Era l'introduzione ai 108 fiori di loto, frammenti che il maestro Fan Huang ha raccolto nel corso degli anni di viaggi e meditazione in forma di souvenir per colui che cerca il cammino dell'uomo forte e felice. Per la cultura orientale i numeri non hanno solo un significato matematico, ma rappresentano concetti e simboli molto antichi e legati alla filosofia e alla natura. Per esempio il pensiero è basato sui 5 elementi: aria, fuoco, terra, acqua e legno. Anche le stagioni sono considerate essere 5. Esiste infatti una stagione tra l'estate e l'autunno e questo porta a dividere l'anno in 5 parti, ognuna di 72 giorni, con un avanzo di 5 giorni e mezzo che in genere vanno a completare la stagione centrale. 72 è un numero particolare dato da 8 per 9, dove il numero 9 è considerato il massimo yang, in Vietnam zung sarebbe il positivo, e il numero 8 il massimo yin, in Vietnam am, negativo. Da qui ne discende l'importanza che ha come base del 9 il numero 3, numero che nel Viet Tai Chi e non solo è utilizzato come base per contare le serie di esercizi. Ed eccoci arrivati a parlare della teoria dei cinque elementi. Secondo una teoria antica più di 5.000 anni, il mondo della natura è governato solo da cinque elementi che a loro volta sono in grado di generare tutto il resto. Questi cinque elementi non sono forze statiche, ma devono essere considerati principi dinamici che attraversano le relazioni tra di loro, esercitando il controllo sul mondo della natura di cui fa parte anche l'uomo. Questi elementi sono il legno, il fuoco, il metallo, l'acqua, la terra. Il legno è l'elemento della primavera. Vi ripeto che Am corrisponde a Yin cinese in Vietnam e sarebbe il negativo, e Zung è il positivo e corrisponde allo Yan. Quindi il legno è l'elemento della primavera. Quando la natura si risveglia e Am dell'inverno inizia a far posto a Zung dell'estate. La primavera è collegata all'est, da dove sorge il sole, quindi come la primavera è l'inizio dell'estate, il mattino è l'inizio del giorno. Gli organi del corpo umano collegati al legno sono il fegato e la cistifellea, che trasmettono al corpo un'energia calda e dinamica. Il fuoco è l'elemento dell'estate, brucia e va verso l'alto. Rappresenta il massimo dell'energia positiva all'interno di una giornata o nel culmine dell'estate. Il punto cardinale è il sud, gli organi collegati sono il cuore e l'intestino tenue. Il metallo è l'elemento dell'autunno. Ormai l'energia positiva inizia a scemare e lascia il posto a quella negativa. Zung, il positivo, cala e Am, il negativo, aumenta. È il tramonto del sole e quindi il punto cardinale è l'ovest. Al metallo sono correlati polmoni e intestino grasso, l'uno come fonte di energia dall'universo che ci circonda, assimilata mediante la respirazione, l'altro come punto in cui vengono separate le sostanze all'interno del nostro ciclo metabolico. L'acqua è l'elemento yin, quindi am negativo per eccellenza. Siamo all'inverno, il momento più freddo e umido dell'anno, e il momento più buio e freddo del giorno, la notte. L'acqua domina al nord e gli organi interessati sono reni e vescica, che si occupano del bilancio idrico del nostro organismo. La terra si trova al centro dei punti cardinali e collega gli altri quattro elementi. Senza di essa, infatti, nulla esisterebbe. Esercita la propria attività durante tutto l'arco dell'anno nutrendo, generando, proteggendo. Gli organi ad essa correlati sono stomaco e milza, appunto gli organi preposti alla nutrizione. Bene, come sempre spero di esservi stato utile o quantomeno di non avervi annoiato troppo. E ricordate, come disse Confucio, non esiste una strada verso la felicità è la strada.